Principessa Anastasia. C'era una volta, nella grande giungla, un regno chiamato Tanzonga. Tanzonga era governata da un re malvagio chiamato Boris. Le persone sotto il suo regno erano molto infelici, le tasse erano esorbitanti, i soldati erano prepotenti e a nessuno era concesso il diritto della libertà di parola. Ma non era sempre stato così. Tanzonga era un regno felice e pacifico sotto il dominio del suo legittimo re, il re Robin. Il re Robin amava i suoi sudditi e cercava sempre di discutere e trovare nuovi modi per migliorare la vita delle persone nel suo regno. Non solo era un buon re, ma era anche un bravo marito ed un ottimo padre. Amava sua moglie e la loro unica figlia, Anastasia. Le cose andavano bene quando improvvisamente un giorno Boris, che era allora il generale dell'esercito del re, decise di andare contro di lui. Con grande discrezione e attenzione iniziò lentamente a influenzare i ministri e i cavalieri contro il re. Non gli ci volle molto tempo, poiché usò la loro avidità a suo vantaggio. E quando venne il giorno giusto, catturò il re e la regina ed ordinò loro di rinchiuderli nelle segrete. «Sei un traditore! No!» «Sono il nuovo sovrano di questo regno! Io, il grande re Boris!» «Anastasia, corri!» «Guardie, prendete la principessa!» Le guardie corsero dietro alla principessa, che allora aveva solo 5 anni. Ma stranamente, la principessa svanì e non fu mai più trovata. Era come se fosse scomparsa nel nulla. I giorni passavano e i soldati temevano di non riuscire a trovare la principessa. Discussero tra loro e poi tornarono da Boris e dissero: «Altezza! La principessa stava cercando di attraversare il fiume quando è annegata nell'acqua.» «Bene, l'unica erede di Robin ora è scomparsa. Il regno ora appartiene a me, solo a me.» Sono orgoglioso di te, Ana. Il tuo allenamento è ora completato. Grazie, maestro. Ricorda, Ana, ogni volta che ti troverai in dubbio, chiudi gli occhi e... inspira ed espira. Sì, maestro, me lo ricorderò. Bene, ora sei pronta per andare a Tanzonga. Ragazzo, cosa tieni in quella borsa, eh? Solo un paio di mele per la mia sorellina. Ah, non ne ha bisogno, dai, dammele. No, non lo farò, ha molta fame. Per favore. Come osi? Io ti... Usi la tua stazza e la tua forza per spaventare un bambino davvero virile. Chi sei? Allontanati dalla mia... Basta maltrattare gli innocenti. Torna dal tuo re e digli che i suoi giorni sono contati. Vai! Il soldato scappò. Anastasia guardò il bambino e si voltò per andarsene, quando il bambino disse: Aspetta, come ti chiami? Asia. Wow! Sei un supereroe, Asia! Super Asia! Vai a casa, bambina. E con questo... Anastasia scomparve nella notte. Wow! Presto, l'aiuto di Anastasia nei confronti della gente iniziò a fare notizia. Il popolo del regno pensava di aver finalmente trovato un salvatore. Chi è lei? Non lo so! Abbiamo appena intravisto la sua faccia! Nel frattempo divenne un modello per i bambini. Ehi, guarda, sono Super Asia! Vai dal tuo re e digli che i suoi giorni sono contati! E presto la notizia di Super Asia raggiunse il re. Chi è questo Super Asia? E come osa attaccare il mio soldato? Signore, lei! Come ti permetti di interrompermi? Oh, no, Altezza! Non è un lui, ma una lei! Super Asia è una ragazza! Una ragazza? Vuoi dire che una ragazza ha creato scompiglio nel mio regno? Mentre i ministri e Boris continuavano a parlare, il ministro del benessere pubblico, ruolo che era stato mantenuto solo per il nome, Mister Aruto, inarcò le sopracciglia. Mi dispiace interrompere, mio signore, ma se il ministro Rugg potesse dirci quando è che questa lei appare esattamente, potrebbe essere di grande aiuto per pianificare le nostre mosse. Sono d'accordo! Appare solo dopo il tramonto. Non appare mai durante il giorno. Ieri, quando uno dei nostri soldati stava discutendo le tasse nel pomeriggio, si è sentito osservato e seguito. Ma non gli è successo niente. Ma la sera, mentre stava andando al castello con i soldi delle tasse, è stato attaccato e legato. Nelle ultime settimane, molti dei nostri soldati sono stati attaccati. Sembra che attacchi chiunque faccia parte della sua amministrazione, Altezza. Un piccolo sorriso apparve sul viso del signor Aruto. Più tardi quella sera, il signor Aruto si trovava nella deserta piazza della città, quando improvvisamente sentì qualcuno alle sue spalle. Lui sorrise. Il signor Aruto le prese immediatamente la mano e la guardò negli occhi e sorrise. Anastasia era confusa. Principessa Anastasia. Chi sei? Come fai a sapere il mio nome? Orsa Maggiore. Le lentiggini sotto i tuoi occhi hanno la forma della costellazione Orsa Maggiore. Le sopracciglia di Anastasia si inarcarono e subito si mosse come il vento. Adesso teneva il signor Aruto a terra. Mio fratello ti ha insegnato bene. Anastasia era scioccata. Il giorno in cui sei sfuggita è stato lo stesso giorno in cui mio fratello Michiko ha lasciato la Tozonga. Mi è venuto in mente quella volta che ti avesse salvata lui, ma poi ha spazzato via il mio pensiero. Ma di recente, quando ho iniziato a sentire le storie di Super Asia e il suo rancore verso l'amministrazione reale, quel vecchio pensiero è tornato. Anastasia si alzò in piedi. Anche il signor Aruto si alzò. Perché sei qui? Michiko e io abbiamo promesso di proteggere il re Robin e la sua famiglia fino al nostro ultimo respiro. Ma Boris aveva pianificato tutto in modo molto subdolo. Quando il re e la regina furono incarcerati, mi venne chiesto di unirmi a Boris o di dare via la mia vita. Pensai che se fosse rimasto vivo e fuori dalla prigione, un giorno sarei stato in grado di liberarli. Quindi ho accettato di unirmi a loro. Mio fratello, tuttavia, non era a conoscenza delle mie intenzioni. Ecco perché se n'è andato con te e non mi hai mai detto dove si trovasse. Da quel giorno ho cercato il modo per far uscire il re e la regina, ma non ne ho mai avuto modo, fino a quando non sei arrivata tu. Voglio mio padre e mia madre fuori dai sotterranei. Se sei veramente fedele a loro, questo è il momento di dimostrarlo. Dimmi, come posso raggiungere Boris senza creare il caos nel palazzo in modo che le guardie non feriscano i miei genitori prima che io li raggiunga? Ho giusto pensato a un piano adatto. Il signor Aruto spiegò ad Anastasia che Boris era sempre circondato da guardie, eccetto per una volta l'anno, quando inscenava a teatro la conquista del regno per tutti i suoi sudditi. Boris ama ricordare alla gente ogni anno che è il loro grande re. Si esibisce sul palco, ma ovviamente si presenta come un grande guerriero e un buon leader. Apre la commedia da solo e poi gli attori si uniscono. Aruto disse ad Anastasia il giorno e l'ora della rappresentazione. Anastasia sorrise. E in pochi giorni quel giorno arrivò. Le persone, senza voglia, si radunarono vicino al palco. I ministri e i cavalieri presero i loro posti davanti. I tamburi rullarono e il sipario si aprì. Ma con grande sorpresa di tutti... Ah? Cosa? Boris era legato e giaceva a terra, mentre Anastasia sedeva sul trono. Fa parte dello spettacolo? Ehi, è Super Asia! E presto la sala si riempì di mormorii. Proprio in quel momento il signor Aruto salì sul palco e disse... Questo è tutto, la fine del regno di Boris. Signore e signori, vi presento la vostra principessa perduta da tempo e la legittima erede al trono, la principessa Anastasia. La folla iniziò a gioire piena di felicità. Lei è la nostra principessa! Sì! Fermo! Pensi di poter catturare il nostro re mentre stiamo seduti in silenzio? Guardie, andate subito a sorvegliare la prigione dove sono tenuti Robin e sua moglie. Se non libererai re Boris, faremo giustiziare i tuoi genitori. Vai avanti e provaci. Tutte le porte di questa sala sono chiuse da fuori. E mentre parliamo, mio padre e mia madre vengono liberati dalla prigione. Eh? Cosa? Lascia cadere le tue armi e calciale via. Indifesi, i soldati e i ministri fecero esattamente questo. Anastasia fischiò. Mi hai ingannato! Non è possibile! Devo ricordarti come hai conquistato il nostro regno? Avrei dovuto seguirti da solo. Il mio più grande errore è stato pensare che una ragazza non potesse farmi del male. Sì, quello è stato il tuo più grande errore. E così Boris e i suoi uomini furono messi in prigione. Anastasia si riunì con i suoi genitori. Il signor Aruto si riunì con suo fratello. E il popolo del regno fu di nuovo felice. La principessa Anastasia venne incoronata come nuovo sovrano della Tanzonga. Con lei la gente fu di nuovo felice. Durante il giorno Anastasia era un buon sovrano. Prendeva decisioni rispettando la legge e l'ordine, ma quando il sole tramontava, faceva un respiro profondo e partiva per gli angoli più remoti del suo regno, nelle vesti di un eroe mascherato. Super Asia! Fine!